giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In apertura, l'incendio scoppiato nella notte in una struttura per minori stranieri non accompagnati a Tor Viscosa. Il rogo, le cui cause sono in corso d'accertamento, sono partite dal primo piano. Ingenti danni, nessuno è rimasto ferito né intossicato, i ragazzi sono stati trasferiti in altre strutture. Si tratta del sesto incendio in meno di 3 anni in strutture di questo genere. L'allarme è scattato nel pieno della notte a Tor Viscosa, 20 minuti prima delle 4, un incendio in una struttura per minorenni gestita dall'associazione Aedis. Nessuno si è fatto male, ma i 16 ragazzi all'interno sono stati fatti evacuare perché lo stabile è stato dichiarato inagibile. Danni ingenti all'impianto elettrico, sia per le fiamme, il fumo, sia per l'intervento di spegnimento dei vigili del fuoco. I pompieri hanno operato per oltre 4 ore, sotto sequestro alcuni oggetti e una piccola parte dell'edificio. Secondo i primi rilievi, il fuoco sarebbe partito da un mobile al piano terra vicino all'ingresso. Solo l'indagine chiarirà se ci sia stato del dolo. Il rogo è stato domato anche grazie agli estintori presenti sul posto, utilizzati nell'immediatezza. Si tratta almeno del sesto incendio in altrettante strutture di questo tipo in Friuli Venezia Giulia in meno di 3 anni. Il più grave a Pasean di Prato nel dicembre 22 ha causato la morte di un giovane. Anche allora la gestione era in capo ad Aedis. La Onlus si è attivata immediatamente per trasferire i minorenni in luoghi adeguati. Compito non semplice perché le amministrazioni fanno spesso ostruzionismo contro questo tipo di strutture. Qua e là la cittadinanza si è mobilitata con manifestazioni e petizioni in diversi luoghi della regione, tanto che il presidente di Aedis, Michele Lisco, ammette che nessuna amministrazione in tutto il Friuli Venezia Giulia ha dato apertamente la disponibilità ad accoglierne una. Anche nel caso di Tor Viscosa, il sindaco Enrico Monticolo aveva un paio di anni fa protestato contro la presenza della comunità prima di ricucire rapporti con Aedis. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Dopo la giornata campale di ieri, con code fino a 7 km alla barriera dell'Isert, anche oggi bollino rosso sulla rete autostradale della regione, legato principalmente ai rientri dei vacanzieri dalle località di villeggiatura. Il traffico nelle prime ore del mattino si è andato via via intensificando, con i primi rallentamenti all'Isert registrati verso le 10.30. Un'ora dopo la coda arrivava già fino a Duino e si bloccava anche il traffico in ingresso al casello di Latisana, con code in territorio veneto tra Porto Gruaro e San Stino, sempre in direzione ovest. Al momento si segnalano rallentamenti anche al nodo di Palmanova, in direzione Trieste. Traffico anche in ingresso stato, al confine di Fernetti, code per oltre 1 chilometro legate al controllo dei documenti. Oggi i mezzi pesanti non possono circolare fino alle 22. Domani però è attesa una nuova giornata difficile, con la ripresa del traffico pesante su Fernetti in conseguenza della chiusura della superstrada slovena H4. Andiamo a Pordenone, nel quartiere di Villanova, rinnovata l'iniziativa dell'Avis per sottolineare l'importanza della donazione di sangue. I più mattinieri si sono messi in fila per le iscrizioni prima delle 8, poi le partenze scaglionate fin dopo le 9.30, scegliendo fra 3 percorsi da 6, 12 o 18 chilometri, alla portata di tutti. Alla fine sono stati poco meno di 700 i partecipanti alla marcia del donatore di Villanova di Pordenone, che hanno rinnovato una tradizione che quest'anno coincide con il mezzo secolo della festa in piazza. L'iniziativa è nata 44 anni fa dalla piccola e attiva sezione Avis di Villanova. Quando li chiami, i volontari sono sempre puntuali, non dicono mai di no, e questo è fondamentale per la sanità e per gli ammalati, spiegano Carmelo Agostini e Claudio Del Pio Luogo, già presidente regionale e componente dell'esecutivo nazionale Avis. L'obiettivo, aggiunge l'attuale presidente della sezione, Tiziano Lott, è quello di stimolare il senso del dono e anche del volontariato in generale, considerato che dopo il periodo del Covid è diventato più difficile trovare persone disponibili a impegnarsi nelle associazioni. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Interventi straordinari per 637.000 euro decisi in assestamento di bilancio da parte del Comune di Udine per la sicurezza e la riqualificazione delle scuole d'infanzia e degli asili nido. Interventi previsti in particolare alla Paparotti di Via Pellis, alla Primo Maggio di Via Martignacco, alla Marco Volpe, nonché alla Fantasia dei Bimbi di Via Diaz. Lavori in corso alla Zorutti, alla Pellico e alla Bella Vitis. Uno sguardo al tempo, il cielo è sereno, poco nuvoloso su pianura e costa, variabile montagna. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 22 gradi, il mare mosso con una temperatura di 25 gradi. A Pordenone Gorizia 22, a Udine 21 e mezzo, a Tolmezzo 18, a Forni di Sopra e Tarvisio 16 gradi, a Sappada 13, a Piancavallo 12 e mezzo, sul Monte Zoncolan 9 gradi, sul Monte Lussari 8, a Lignano 24 gradi, a Grado 23. La temperatura del mare in entrambe le località è di 24 gradi. Le previsioni dell'ARPA regionale. Oggi su pianura e costa avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso con bora moderata sulla fascia orientale. Sulla zona montana cielo variabile con la possibilità di qualche breve debole pioggia pomeridiana, specie su Alpi e Prealpi Carniche nelle zone al confine con il Veneto. Domani tempo stabile. Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per qualche velatura. Sulla zona montana cielo variabile per la formazione di cumuli dalle ore centrali. Soffierà bora debole nella notte e fino al mattino poi venti di brezza. Alla scoperta di ville e castelli in Friuli, allo stesso tempo anche di percorsi naturalistici. Oggi è la volta del tour dell'antico castello di Prampero, con una camminata nei dintorni di Magnano in Riviera per esplorare la piana di Artegna, ricca di sorprese. È in corso in questo momento la visita guidata al castello di Prampero sull'omonimo colle a Magnano in Riviera, parte dell'iniziativa Andar per ville e castelli di AICS, Associazione Italiana per lo Sviluppo della Cultura d'Impresa Turistica e Culturale. 10 tour nei weekend tra giugno e settembre, visite abbinate a passeggiate a piedi in bicicletta o degustazioni. Ad accogliere gli ospiti Maria di Prampero, la dimora di famiglia quest'anno compie 1000 anni. Correva l'anno 1025 quando il patriarca di Aquileia, Popone, diede licenza a un feudatario proveniente dalla Baviera di costruire il castrum sul colle Boschivo. Non ha mai vissuto qui Maria. L'ultimo residente fisso prima del crollo della struttura con il terremoto del 76 fu il grande pittore Afro Basaldella, maestro dell'astratto e dell'informale. Si stabilisce qui nel 61, fresco vincitore del premio Guggenheim di New York, accordandosi per un affitto ventennale. Per 3 lustri la sua arte ha fiorito nel salone principale, prima del suo trasferimento in Svizzera, pochi mesi prima della sua morte e della devastazione del sisma. Nel castello non rimangono che ruderi divorati dalla vegetazione fino al 98, quando con contributo della regione inizia la parziale ricostruzione, terminata nel 2011. Occasionalmente i genitori di Maria, Pietro Enrico e Marisanta, tornano qui per qualche giorno di villeggiatura d'estate. Le porte del castello si sono aperte anche per il cinema all'aperto e per corsi di yoga. Per terminare la ricostruzione, dice Maria di Prampero, bisognerebbe pensare a cosa fare della struttura. Per ora è stata ricostruita come residenza privata, ma varrebbe la pena far qualcosa perché venga vissuta da tutta la comunità e il comune se ne sta interessando. Magnano in Riviera, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo allo sport calcio, torniamo sulla sconfitta con onore della Triestina contro l'Alcione che ieri ha vinto per 1-0. La società alabardata è stata nuovamente pesantemente contestata dai tifosi e ora l'incognita riguarda il campo dello Stadio Rocco. La Triestina non ha versato 80.000 euro per il rifacimento del manto erboso e i lavori di cucitura delle zolle si sono fermati. Anche se può non sembrare, visto che i tifosi l'hanno disconosciuta e non c'è il logo sulla maglia, la Triestina esiste ancora, è esordito in campionato. Una squadra senza nuovi acquisti e con l'addio di chiunque avesse soltanto una mezza richiesta, affidata a uno sconosciuto e senza preparazione e senza Correia, l'unico motivo per cui la società prosegue l'attività sperando di incassare qualche soldo dalla cessione. Sconfitta all'esordio in campionato contro l'Alcione Milano. Dopo un'occasione per Johnson, sventata dal portiere lombardo Agazzi, i padroni di casa passano in vantaggio il quarto d'ora con un gol dai 40 metri. Pituve de Matoscevic fuori dai pali e lo scavalca con una parabola lenta. La squadra senza la barda ci prova con Pedicillo e Fertainen, poi l'Alcione sfiora il bis con Muroni. Nella ripresa il ritmo rimane basso, ma ci sono occasioni. Ancora Fertainen non riesce a trovare il gol su cross di Ionizza. L'Alcione sfiora il bis, poi prima che la benzina finisca l'occasione del pari arriva con un tiro di Gunduz con deviazione parato. La classifica dice ancora meno 7 con almeno altri 6 punti di penalizzazione che si sommeranno nel prossimo mese. Nel frattempo potrebbero arrivare in settimana un po' di denari freschi dall'America per tener viva la fiammella con nuovi ingressi in società. Ma i problemi non finiscono. La società non ha versato la sua quota, circa 80.000 euro, per il rifacimento del Prato Rocco dopo il concerto di Robbie Williams, al contrario degli organizzatori. La ditta non ne vuole sapere di lavorare a credito e il campo potrebbe non essere omologato. Senza una campagna abbonamenti e con i collaboratori domenicali che potrebbero incrociare le braccia, sabato contro l'Ecco si potrebbe giocare a porte chiuse, sempre che la Lega conceda l'ok al terreno. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Monfalcone, dopo mesi di lavori, è stato inaugurato il rinnovato stadio di Via Boito. Con un investimento complessivo di 500.000 euro è stato adeguato l'impianto antincendio e quello di accessibilità. Poi l'efficienza energetica ottenuta con il rinnovo completo dell'illuminazione e la sostituzione delle vecchie lampade alogene con luci a LED capaci di ridurre consumi ed emissioni. Infine, la valorizzazione della fruizione pubblica con interventi che hanno migliorato la qualità degli spazi destinati ad atleti, società e spettatori. Era l'ultima notizia del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso, per la parte tecnica in regia Caterina Cabrelli e Paolo Cassano. Da parte di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e ancora l'augurio di una buona e serena domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.